uguale. Vabbè, quello c'è in vela, c'è in vela. Io ce ne ho un coso qua. Un porta, porta batteria, da 12 batterie, sì. Quando ti serve da 12 te lo do. Lo puoi lanciare, forse a per il Maxwell 7. E poi un altro porta batterie di quel famoso Major 40 canali che c'aveva con il microfono. E il Major ce l'ho ancora, solo che era più basso. Se lo trovo vintage me lo prendo. Il Major quello portatile. C'ha 40 canali normali, 40 sotto, c'ha preso. E mettevi 10 o 12 batterie, batterie così accendi io quelli. Quelli a fare 16 la finta batteria. Così ne mettevi posto di 12 batterie, ne mettevi 10 o 11. Quelli li accendi ancora, Sì, quel portatile, guarda, ovviamente pagando, però purtroppo trovando una persona con strumentazione e con voglia e ci permettendo una bella revisione, gliel'avrei fatta fare a quel portatile, in modo che esca normale, non deve uscire potentissimo, deve uscire normale, che poi io mi ricordo, ce l'avevi anche tu, usciva bello limpido, io quando l'avevo visto a casa tua ero rimasto estasiato. Per quel portatile, poi sai, era bianco, era diverso dai soliti portatili. Infatti da Cineradio mi pare l'avessimo pagato ben 200, credo di avere ancora il libretto col timbro di Cineradio e forse anche lo scontrino attaccato. Io quel portatile l'avevo portato alla Maddalena, mi ricordo. Figurati tu, quando siamo andati con mio padre, siccome non voleva pensare nessuna antenna, babbo, nella grondina, allora ho preso quell'apparecchio lì, me l'ho portato alla Maddalena, poi vado a parlare, non c'era con cara, gli ho detto la giornata da fare, a parlare col muro, poi una sera sono andato in macchina, erano le 9:30 di sera e sono entrati in due, sono entrati via alla Maddalena. Ho parlato con quei due, 5 minuti, e poi uno di tempio, poi basta. Poi gli abbiamo di bene, sono stato un momento a casa di mia zia e l'ho lasciato dentro al cofano, della vittima per esattezza. Anche mamma mi pare... Per un anno, lei era passato tanti anni in Gallura, no? Insegnare, per un anno era stata la Maddalena e usava proprio il Maxcom 7, che io ricordi, o comunque anche quel portatile, con la boomerang messa dentro casa, era o una boomerang o una mini boomerang. Però lì si era formata tutta una ruota, perché è entrato uno, è entrato l'altro, come hanno sentito voci di donne. Anche lì si sono fatti i gruppetti, le fazioni, quello non poteva vedere quello, allora non entrava, oppure c'era il portantista a mezza strada, a metà strada, che poi metteva portante a tutti, insomma, e parlavano tra Palau e la Maddalena. E te l'ho detto, anche lì si cavavano gli occhi, stiamo parlando di 30 anni fa sempre. C'erano i soliti le gelosie, è quello che parla con quella, allora quello geloso mette portante, insomma, solita cionfra, da. Già ho capito. c'era in giro, va in giro adesso. C'è questo coso, 129, io non me lo voglio prendere, questo SDR, se mi avanzano soldi questo mese. Sembra un coso, fa tutta la banda HF fino ai 50 MHz. C'è l'antenna, come il Maxo. Tu prendi, sembra che sei sempre un telefono. Sì, diciamo, lo schermo è orizzontale, sembra un televisorino sembra, però se lo compri accertati che sia marcato Malahit, HIT, Malahit, Malahitu, e che sia anche col software aggiornato, uno degli ultimi modelli, e credo che il prezzo sia proprio quello. Quello ti facilita le cose, me l'ha spiegato anche Luca, perché non devi stare con la rotellina a girare vuota a cercare un segnale. Lì vedi tutta la gamma, tipo metti da 7000 a 7200. Quando entra qualcuno a parlare, lo vedi dallo spettroscopio lì com'è. Come si chiama il waterfall, quella minchiata lì, clicchi sul segnale e vai direttamente ad ascoltare quel segnale lì, è molto molto pratico. E fai scomodo, facciamo le batterie all'interno, è bellino, bellino quell'apparecchio lì, me lo voglio prendere, se riesco a, adesso vediamo un po', me lo voglio ordinare, dice, si può modificare per far andare anche 27 ma anche meglio. Poi guarda, dovrebbe avere un suo DSP, però se riesci a farti, perché mi pare che sia in scatola di montaggio, un DSP come quello che c'ha Luca, è magico. Cioè tu con una banalissima loop magnetica, un cerchietto messo sul tetto, questo DSP ti annulla la maggior parte del rumore e tu c'hai questa ricezione chiara, limpida, anche incredibile ti sembra, ed è molto più silenzioso, ti risulterà molto più silenzioso che ne so di un Kenwood, che in confronto è una friggitrice, è una Bluetooth il Kenwood. Però a patto di avere anche questo DSP aggiuntivo, almeno credo di aver capito così, perché ti migliora ulteriormente il segnale, te lo proprio pulisce, te lo ripulisce tutto. Già mi ha mandato cosa, la foto, il mago mi ha mandato la foto che sta ascoltando, c'è la luce là, capito? Me l'ha mandata adesso sul telefonino, e c'è quello lì, 129 euro, se ce n'è in più immediatamente me lo ordino. Cos'è questo fruscio forte? Qualcuno che ha sbagliato modo di emissione o cosa? Chi è avanti? Io ho sentito. Anche io ho sentito così. Comunque c'ha l'SDR e l'ISP. E la marca è quella che è tutto. Ce l'ho qua e fo. Sì, è carino, però io non. Non c'ho più la passione, sì, anche se tu clicchi, vai su direttamente sul segnale, c'è tutti i filtri passabanda, non ho voglia, a me basta quel maledetto X adatta, sì, ogni tanto devi girare questa rotellina, ma tanto vai a passo lungo, quando sei in prossimità del segnale riduci lo step, fatto gli yogomi. Non voglio più spendere soldi per roba amatoriale. Ne ho spesi, come hai visto, le ho spesi per niente, perché poi non c'era abbastanza passione. A proposito, l'altro giorno c'era un articolo sulla Nuova, dove un radioamatore, mi pare di Selargius, può essere, Cagliari, quella zona lì, ha vinto un premio, o è stato tra i primi per l'attività QRP. Un certo Giancarlo, un teschio Giancarlo, però non ricordo il cognome, insomma è stato tra i primi premiati, o così ho letto. Di quegli apparecchi non avevo mai preso, capito? Stavo uscendo e sono bellini, bello per quello, poi c'è l'antennino, c'è la cosa, tu puoi portare a passeggio, capito? E puoi parlare, cazzo, questo a quelli lì, c'è il video. C'è il video. Parlavo tranquillamente in 28, cazzo. Come se fosse parlando con l'antenna esterna, è una dei due. Aspetta, ho visto gli Zodiac di prima che mi dicevi, sì, adesso ce li ho presenti. Allora, stavo cercando radioamatore QRP premiato, vediamo se riesco a risalire al. Allora, ARR, c'è questa lingua, ARR, porca, non riesco a dirlo, ARRL di Ex Contest, brilla il sardo Giancarlo Saiu, e credo che sia, quindi QRP, quindi 5 watt, sì, dice Largius, mi pare di aver letto, c'è anche la foto. Dice 70 anni, sembra più giovane, a parte i capelli bianchi, credo fosse un sessantenne. Vediamo se dice la sigla anche. Iglesias, sì, già è quella la località. aspetta. Mi ha detto, io ho già capelli bianchi, sono rimosso più di 60, figurati. È mosso 70, se ci arrivo pure 70. Se andiamo avanti così, la facciamo l'affare. Certo, una cosa però, Antonio, vedi, se uno vuol fare una bella attività amatoriale devi essere un po' in soldi, perché cioè, per fare cagate, vabbè, uno si accontenta, però cosa può fare? Uno modula dalla macchina, con la modesta antenna magari multibanda, Proxel, qualche collegamento lo fai, aiutato dalla propagazione, però se vuoi fare roba in grande stile, su tutte le bande, su tutti i modi, con tutte le tecniche, ti vuoi divertire veramente, devi essere un po' anche in soldi, quindi devi essere bravo anche come radioamatore, sapere tutte le leggi, tutte le regolamentazioni, tutte le leggi della fisica, quel cavolo che vuoi, tutte le apparecchiature giuste, fatte, pronte, antenne adatte, eccetera. Se no, per pigliarsi la... A un certo punto pigliarsi la patente per poi parlare in 27 col Kenwood, punto. Cazzo di... scusate, già hai capito. Già lo so, ma il Kenwood è Kenwood, cioè c'è bene. Con il batte che tira fuori. Sembra che sei in un altro mondo, perché fai chiamata, ti rispondono subito, non c'è bisogno di nessun lineare, capiniale, aggiuntivo. Quindi... c'è anche gente che si diverte in PMR, invece fuori. Allarme ci sono. No. Vete. Fai la manovra e... gira a sinistra. Così, gira a sinistra. Così mi esce tutto in terra, questo. Il carbone. Sì, ogni tanto senti anche qualche turista di transito. Li senti parlare in francese, mi capitava, saluta Platamona, oppure qualche lingua dell'est, un po' di tutto, tedeschi, così, sai, e lo usavano tra camper e spiaggia, spiaggia camper o tra due camper, per quando andavano magari in gruppo, oppure anche all'interno del campeggio stesso, perché no? Ti ho sentito due l'altro giorno in macchina, c'erano i bondi. Andiamo a Sassari, vieni qui, ci ha detto lui domani, ti devo già aperti, è meglio che te ne vai a Ottolini a cosa, per la letta, fai la spesa. Per esempio, mi pare che il negozio di Ferragosto, io magari ce n'erano altri, ma io quello conoscevo, mi pare a Ferragosto proprio era aperto Carrefour, poi non ho capito quale, sarà di Pre-Daniel, sì, quello Carrefour, dai, già capito. Poi magari chi voleva aperto, si hanno fatti i turni, tanto capirai, per Ferragosto c'era brutto tempo, mi pare, era, insomma, alla fine, adesso migliorerà un po' il tempo, quindi chi si vuole fare un po' qualche giorno di mare, salirà abbastanza la temperatura nel fine settimana, per la rottura di scatole. Andiamo tutti in piscina, faccio il bagno, al fangazzo. E qualcuno si accontenta della piscina anche, già è bello, insomma, però preferisco il mare più aperto, magari non... Io guarda, sono andato solo due volte a Platamona, e l'acqua era bella, la seconda volta era spettacolare, trasparente come il cristallo, una cosa, un bijou. Meglio così. Io sono un giorno che non vado al mare, da quando sono. Mi ero beccato con Simona, poi c'era Marisa e Daniele. Cazzo, sono andato lì, prima attentivo, poi per tavola, le vespe appresso, fa culo, non ci parlo più. Ma tu con la... con quella cosa lì della pelle, lo puoi prendere il sole o ti fa peggio? Ho preso il sole con Dymorex. Dymorex è come applicare il grasso di vaselina nella pelle, capito? Perché c'è grasso di vaselina in mezzo e attira molto le vespe, capito? Come se tu lasciassi la birra nel bicchiere oppure il gelato fuori. La roba dolce mi piace molto, le vespe. Loro stesso con la vasellina c'erano le vespe 4 o 5 attaccate al pisello. Perché? Pure il pisello dolce? No, il pisello non era dolce, però le gambe sì, no, prima di uscire mi ho riempito bene di Dymorex, le gambe, le spalle, le braccia, quindi ho cominciato a tirare, e capito, le vespe come se avessi aperto un'anguria, un melone, e quindi mi sono dovuto alzare, mettermi le maglietta, i calzoni, e dico, cosa ci faccio qua al mare? Fatevi il bagno voi, e a me lo metto, non me lo pongo i coglioni, ho questa vespa. E così ho fatto, e poi ce ne siamo andati in villetta e ci siamo divertiti, abbiamo cenato, eccetera, eccetera. E io, tanto mio, ho visto video, non so se è la persona, però non esce di radio, se... Luca, se sei tu, non, se c'è una specie di... non si capisce. Comunque l'audio di quel ricevitore è eccellente, soprattutto il secondo video, eccellente, limpidissimo, anzi meglio di quanto siamo anche in AM, diciamo. Beh, senti, sì. Senti la differenza, senti. Naturalmente passandolo in radio è più distorto, insomma. Mica l'ho sentito direttamente dal telefono, è eccellente quell'ultimo video come audio, veramente eccellente. E Antonello, se vuole, basta che sappia imparare a usarlo, perché magari Antonello passiccione tocca tutto e dopo dei giorni magari si stufa. Antonello, ah? Beh, ma ci vogliono i soldi. Capito? Ma devo incassare. Una volta che incassa faccio il giro di spese che c'ho da fare, se me ne mangono 129 euro, anche 140, perché tanto bisogna fare per forza il pagamento delle cose. Carico la carta, telefono alla lettera, me lo faccio spedire. E poi c'è mi arriva, e poi già ci sarà il, come si chiama, il manuale di istruzione. Adesso ho già chiedendo, non costa nulla. Infatti mettici il ricarico, Luca, faglielo pagare il 50% in più per il disturbo. Allora, il ricarico, poi già lì, dai. Sì, comunque è carino, veramente è carino. Cioè, quello, immagina, ha messo anche, vabbè, io dico sempre macchina, no? Te ne vai in giro, in zone magari strategiche, con l'antenna veicolare, quella Proxel Prox 1, che risuona bene quando c'è quel ponticello lì. Questo già l'XH data, quello a rotella, riceve in modo eccellente, così come era il Texun, riceve benissimo. Poi quello c'ha i filtri, c'ha tutto, molto molto bello. Vabbè, vedi tu, Antonio, vedi tu. Basta che però non te ne stufi dopo due dì, o lo apri o lo tocchi, perché se lo apri lì addio, eh. Ah, apri e lo apro, ma sei matto, Non sapevo mai quando devi cominciare, quello è solo roba micro, non esiste, Allora va bene, per usarlo qua a casa, a posto del 140, uso quello e poi piace. Nel caso ci abbia decimato l'uscita e c'è il lineare, io di non bibuccio un 31, basta avanti. Vabbè, lineare, io sto parlando di ricevitore sempre, solo ricevitore, vabbè. Piuttosto, tu mi avevi parlato prima di quell'attacco del Max con 7. E cavolo, bella domanda. Quello era un attacco da PL femmina a RCA. E già nell'elenco degli spinotti non lo sto trovando, a meno che non sia nella valigetta, se do un'occhiata. Riprenda chi vuol riprendere, un attimo che la dico subito. RCA, sì, RCA, questa era. No, si abitava, non è RCA. È diverso. È attacco a abitatura, non è RCA. RCA ce l'hai sotto. Dove c'è l'apparecchio, già si vende quello, c'è l'RCA PL, già si vende quelle cose lì. Riecchime. Ecco la valigetta, un po' sconquassata la valigetta, perché insomma poi i materiali erano... Oh, bello, bello, nella sua custodia fa la sua figura, sembra un apparecchio militare quasi. La cinghia per metterselo a tracolla, per strozzarsi o per tirarselo a spalle. Allora. Eccolo qua, adattatore da PL femmina a RCA. O BNC, che cosa sto dicendo? No, RCA con la bananina dritta, ecco, che se vai a cercarlo non lo trovi, come sempre, lo devi ordinare dalla Cina, con la filettatura poi fuori passami, per carità. Ah, no, piacerà, forse non mi sembra piacerà quel pezzo. Pensa che addirittura c'è ancora quell'anello... qua non c'è la spina a cinque sigari, forse l'ho messa in qualche bustone per qualche baracchino, quello deve stare tutto assieme, se no il kit non è completo. C'è ancora quell'anello, tipo aggancio per microfono, quell'anello di plastica bianca che tu usavi per agganciarlo a qualche gancio o roba del genere. Già ho capito. Da mettere in macchina, quello era. Prendevi e agganciavi l'apparecchio direttamente lì, poi schiacciavi a distanza. Sì, tu sai che ci sono le banane di alimentazione sono nere, da quel colore ottone che avevano, figurati, sono passati mille anni, sono diventate un po' nerastre, chissà se è ossido, se viene via col Drigot oppure bisogna cambiare le banane, tanto capirai. Che sono le banane. Rosse, nere, come vuoi. No, ma dico il metallo, dal color ottone che aveva è bruno, sembra bronzo adesso, color bronzo. Sì, vabbè, potrei usarle. Capito. Io ho l'attacco acide sigari qua, maschio e femmina. Figurati, nuovi. Sì, l'originale ce l'ho, l'ho poggiato per qualche altra scatola, originale che c'aveva mi pare il portafusibile interno, che se tu li vai a comprare sfusi, queste spine a cinesigari non ne hanno un portafusibile, a meno che non le ordini da Amazon e costano di più, però ci hanno anche il portafusibile, cavolo. E beh, Luca può parlare o sta facendo roba? Sta facendo cosa, ma... Sta facendo due che riporto, comunque la geccio, poi... Sta facendo cosa con computer, evidentemente. C'è pure il venticello fuori, ho visto. Sta facendo robe? Ti ho sentito. Calma. Andava giù, lui. I microfoni palmari. E due da tavola, lì ora. C'ho il Comaster Plus. ICM40. E poi c'ho le... Ho sistemato questo DM1000 e poi c'ho M43. Me l'ha fatto 45 euro, me l'ha fatto pagare Fusaro. Mio pomponio, fotografia. Ah, mi senti, caro? Sì, a voglia che ti senti. Allora, questo è il Maxcom 7, distanza 5 cm dal mic. Guarda, così è vicino, così 5 cm, così 10 cm, però io non so come stia uscendo. Esce bene, non c'è nulla. È perfetto. Oh, e come mai in batteria mi andava male di radio? qualche rientro RF, boh. No, stai scendendo bene. Aspetta, radio 5, quindi. Non devi toccargli nulla, lascialo così, non toccarlo. Oh, non me lo dire. Io mi ricordo che questo, anni fa, pre-Covid, no? Quando tornavo dal mare, da Porto Torres, che mettevo tutto in macchina, lo attaccavo, accendi sigari e antenna. Tornavo e incontravo, che ne so, a metà strada tra Sassari e Porto Torres, perché sai l'antenna un po' rende poco, sentivo Giulio, poi se c'era qualcuno a Sassari attaccavamo bottone anche da Sassari e me lo usavo per modulare rientrando, no? Cosa che va bene, non si dovrebbe. Bisogna avere le mani libere. Ma quindi mi dici che gira, la modulazione va bene. Se qualcuno mi potesse registrare, tipo Luca, e farmelo sentire, gli sarei molto grato. Ti fa sentire, se è tempo. Qua c'è Tommy. Tu intanto vieni qui, tutta la volta insieme a me, a girarmi i manoplassi stavolta. Ehi, aspetta, ho sentito una notifica, vediamo se è lui. Allora c'è lui. Allora, attaccavamo il bottone anche la sassa. Cioè, si sente bene. È un bijou, porca miseria. Se te l'ho letto, non toccare nulla, lascialo così. Lascialo così. Ah, è stato bello, che è un casino fatto. È stato bello, mettergli attacco per il microfono. Capito? Per il microfono normale o per seccare. Sai, fare non c'è posto di passare i cavi, devi passargli di dietro e quindi trovare un punto aperto e passare quattro fili e collegarli dove c'è il pulsantino della porta. E poi ci vuole anche il pulsante esterno per poter fare la commutazione. Viene un bel male a farlo, che posto. Ehi, ascolta, io adesso l'ho appoggiato qua sul divano, no? In modo, siccome sto usando il cavo grosso diretto, io me lo ricordo dalla macchina, se tu usavi un cavo RG58 con un'antenna più grossa, tenendo in mano l'apparato modulando, rischiavi che la spina RCA ballasse, se ballava rischiavi di bruciare i finali, assolutamente. Quindi adesso lo sto tenendo molto stabile. Adesso ho aperto la custodia e si vede il solito tasto rosso bordo scuro, poi se ti ricordi aveva il 9 e il 19 colorati in azzurrino, i classici canali d'emergenza. Insomma, un bijou questo apparato. E io che stavo palampazzino al cassonetto, convinto che uscisse male. No. Cioè, esce bene quello. Metti tu in vendita. Capito? Già lo vedi subito, già quella parete. La parete c'era uno, solo non mi sembra intorno ai 80-100 euro, adesso non mi ricordo. Lo metti in vendita, lo metti e te lo fai in soldi. Cosa lo tu conservi, te lo tieni in macchina. Metti al cofano, lo lasci di riserva, così quando esci ce l'hai già pronto per fare attaccare a pelle. Capito? Teia. Oh, ci pensi che c'ha 40 anni, quindi adesso io non mi ricordo se l'abbiamo preso nell'84 o 85, ma fa che siano proprio 40 anni, allucinante, e funziona, bello, bello veramente. Ah, comunque questo è di mamma, cioè, aveva detto, mi raccomando, se devi regalare o vendere roba, venditi i tuoi, però il Maxcom 7 è il mio e non lo devi toccare, non lo devi dare a nessuno, non lo devi vendere. Quello deve restare con noi. Detto, vabbè, resterà a morire in qualche cassetto. Poi ci gira, è sfruttabile. Certo, in antennino, Antone, se non sei in una zona molto elevata, perdi un bel comunque come potenza. Basta che metti l'antenna in gomma, esce meglio, lo sai. Antennino è quello che mi scopo. Se metti l'antenna in gomma, esce molto di più, lo sai anche tu. Io avevo attaccata dalla moto, se ti ricordi, nello scooter, nello scuba. Da Velitalia, col barattino, con l'attaccanale, con lo fine, parlavo tranquillamente con Picciolino. Certo, non ricordo, piavo per il culo. Avevo la distanza, ma dell'Italia avvicinavo per abitare. Eia, ascolta, mi c'ho l'antenino suo, c'ho anche quello in gomma, adesso provo a avvitarlo sopra e vediamo se arrivo da te, dubito però, Quindi alimentatore più antenna avvitata sopra, la sua, quella telescopica, che poi è corta, mi è mozzicone, sarà 60-70 centimetri massimo. Collega la massa della magnetica al peso di ferro e ci vuole molto, ci vuole molto. E non ce la fai, è troppo schermato Antonè, dentro casa. Vabbè, pazienza allora, allora. Comunque già ti sento. Va bene, dentro casa va bene, sei schermato in quella. In quella mulattola che c'hai, già un grido. Allora, mi chiedevo, Antonio, mi chiedevo questa cosa, qua a Ponteggio non ce n'è più, no? E questa è una cosa. Però questo cappotto, siccome è praticamente un misto di polistirolo e grafite, secondo te fa da schermo elettromagnetico? Grafite, particelle di grafite è come se fosse polvere di metallo, mi? No, secondo lei non è fatto di cosa? Il cantone che è una cosa avvicinante, cantone e infatti anche i muri quelli grossi, capito. Eia, comunque vabbè, comunque allora diciamo, staccando l'antenna principale, mettendo l'antennino, senti che c'è ricezione, però non arrivo da te, da dentro casa. Se io salissi, per esempio, uscissi un terrazzino, che sono mezzo nudo, sono col boxer, o su un terrazzo, o piazza Le Segni, allora riuscirei magari a parlare con qualcuno. E c'ho anche quello di gomma, che è lungo, adesso te lo dico, è occhiometro, guarda, 30 centimetri, non di più, sembra, te l'ho detto, quelle antenne, quelle antennine di gomma che vedevi su quelle macchine tipo di Eagles, no, messe al posto dell'antenna autoradio avanti, no? Non troppo lunghe, non troppo corte, però la resa, ricordati, dell'antenna più accorciata e più caricata è meno rende, Antonè. L'antenna cominciava a ricaricare quando lavoravo in negozio da usare, e stavano messe le barattine attaccato allo sportello, attacco a cedisile e la magnetica dietro è lampeggiante. Eia, Cesso, quando penso che questo portatile è inutilizzato, d'altronde, scusa, uno a casa non è chiuso il portatile, però in macchina, sai cos'è? Quello che mi secca è che non è a norma, magari al primo controllo, però se questo è un peccato, allora tanto vale lasciarlo così, in museo, come museo, capito? Tu vai in qualche negozio dove c'è qualche cosa, ma cartacce, e attacchi l'adesivo e te lo metti all'apparecchio. Per Antonello è facile, aspetta, fermo. Sto guardando, la portante è immediata, non ha ritardi di portante. Oh, buono saperci, cazzo, c'è una timbrica ricezione, bello, proprio bello. Ah, non l'avevo fatto così io. La lavorazione all'FT250, sono andato alla ultima, avevo comprato un portatile, di quelli, cazzo, ho staccato la lavorazione e ci avevo messo direttamente all'FT250. Quando è venuto Piras, mi ha fatto questa parete che mi ha logato, certo che sì, gli ho detto, è proprio da dietro, ci è rimasto male. Ma questo è un apparecchio metametrico, ma cosa cazzo ne so, gli ho detto, a me me l'avevo venduto così, gli ho detto, che l'ho logato e me lo sono tenuto, ma come l'ha toccato, sono l'altro, e adesso tocca a me la linea verbale per gli altri apparecchi, per gli FT250 no però. Vabbè, però attaccare, trasformare un apparecchio, già lo sai come la penso, non ci è, cioè, non è che ci attacchi un bollino, quelli non sono scemi, se vogliono castigare ti castigano, aspetta, ecco che mi sento. Ah, diceva Antonio, in questo io non ho mai aumentato la modulazione, l'ho lasciato così come era di negozio, secondo me si può aumentare anche la modulazione. La può aumentare sì, ce l'hai l'incidente, c'è il trimmer vicino al trasformatore, regoli quello e ti aumenta l'audio della capsula. Un attimo Antonio. Fai. Dove eravamo rimasti? All'audio, è rimasto. Se mi ricordo male, con l'apparecchio doveva avere il buco piccolo, e il microfono, quello che va all'esterno. Mi ricordo che l'avevo allargato un pochettino. Comunque c'è mi sono, mi ricordo male. Avevo allargato in modo che mi dava più potenza di audio. Eia, io questo credo di non averlo mai visto dentro. Adesso invece per Luca gli dico una cosa. Allora, il primo portatile in alto, quello Elbex, io l'ho avuto identico di forma, però marcato Inuit. Aveva lo stesso altoparlante, stessi comandi superiori, stesso altoparlante, stesso smitter centrale a ventaglio, meraviglioso peraltro. Mi pare di ricordare le levettine, però il mio aveva 6 canali quarzabili, 6 canali, questo forse ne ha o 2 o 3, devo controllare. Ah no, 6 canali anche questo, hai ragione, l'ho letto adesso. Eia. Quarzabili. Sì, Luca, confermo. Uguale, marcato Inuit, l'avevo rivenduto nuovo, l'avevo venduto a un medico e l'amico suo che gli serviva per usare tra barca e barca. Ne avevo venduto 2 portatili diversi, uno era proprio l'Inuit identico a quello che all'Elbex che mi hai fatto vedere. Poi erano belli quelli perché avevano l'antennone da 1,30 m, cioè quella era un'antenna, che pare sia 1,30 m, grosso modo, dai, tu c'è il pezzo di dentro, sarà un ottavo d'onda effettivo, oppure io non so se fossero un ottavo d'onda più una carichetta alla base in modo da raggiungere il quarto, quello non lo so Antone, dentro non li ho mai visti. Antone, sei ancora? Io sento alternata, ma potrebbe essere dovuto alla vicinanza, vediamo un po'. Sento alternata, potrebbe essere la vicinanza, però l'audio c'è, prova, sì, va bene. Molto male, che c'è rimasto? Così stacco questo? Antonello, ci sei ancora? Io sono qua. E ho conservato tutto, ho messo tutto a posto, gliel'ho detto a mamma, poi abbiamo provato dopo ulteriori anni, però è stato fermo quasi 20 anni, come il Connex, l'avevo riprovato, andava, però chissà perché una volta usciva male in batterie, forse erano mezze scariche, anzi sicuramente così. Ricordo anche che dava pochi watt, ben pochi watt, mi pare tipo 2, massimo 3, non di più. Ma d'altronde, Antone, se arrivo, per esempio, qua il segnale rispetto al max come ha cambiato, o è uguale? È uguale. E allora siamo, sì, nell'ordine dei 3 watt, questo lo stesso ci avrà 3 watt miseri. Eia. Sì, allora, quello c'è anche la data di manifattura, settembre 1985, quindi vuol dire che l'abbiamo comprato fine 85, quindi non ha 40 anni proprio, ne ha 39, dai, per ora. Io vabbè, l'ho messo a posto perché tanto puoi stare con questo mattone in mano, non è comodissimo, eccetera, ma sono contento che vada. Se ti ricordi, la Intec in quegli anni là aveva fatto la copia identica, cioè l'aveva commercializzato col suo nome Intec, però era solo 23 canali, ti ricordi questo? Sì, te lo ricordo. Ed era uguale, identico, ti davano tutto, però 23 canali perché all'epoca mi pare, quindi sempre 85, 86, forse 84, si usavano, o 23, non mi ricordo se erano arrivati qua i 34 canali in quel periodo ancora, e comunque i canali oltre il 23 servivano per quegli scopi, ti ricordi, del punto 1, punto 2, punto 3, per scopi commerciali, vigilanza foreste, bla bla bla, per usi professionali, da? Esatto, sì. Poi c'erano le coppie, per esempio dopo il Room ne aveva uno carino, adesso non ricordo la marca, c'era scritto SOS, non so che cosa, però lui l'ha voluto dare, mi pare l'abbia venduto, così almeno ricordo io l'avrei tenuto comunque sia, tanto per 2 citti che ti danno. La si trova poco prezzo, basta controllare su eBay, su qualcuno magari c'era, allora già va bene. No, comunque in macchina rigorosamente la sua antennina in città. In città, diciamo, la sua antennina ancora basta. Città, zone limitrofe. Per esempio, io quando tornavo da Porto Torres, credo che da Sa, almeno per esempio ti faccio l'esempio di Giulio che era a metà strada, un po' agli punti, cominciava a sentirmi all'altezza degli Lioni, una cosa del genere, cioè quando ero un po' più verso Sassari, perché quell'antennino era molto risicato. Però poi riuscivo a modulare, capito? Se invece volevi arrivare più forte mettevi la normale antenna veicolare, lunga 1,5, 1,60, quanto volevi tu, e allora ovviamente il segnale imbatteva di più, ecco. Ho capito. Già va bene, già va bene. Non mi faccio dire un giro dai cinesi, adesso quando aprono. Perché c'è un ricevitore di destra, e lo spinotto molto, lo spinotto quello DMI, e lo si trova, cioè quello che molte monta quel coso è tutto quanto fracassato. Adesso mi faccio un giro, ma se sono fortunato trovo lo spinotto, così glielo applico il ricevitore con la DMI e se la piglio. E così l'ho riparato e vai di là. So bisogna che prenda il ricevitore e trovo poi mi devo perché agganciare una scarpa, ci sono 12 figli, altri 15 figli sono a trovarli a una ora. Black, buonasera. Ha fatto. Becca, penso almeno un pochino, ma che se mi fate rombe, mamma mia qua. E beh, sei stato fuori, sei diventato tardi, almeno una volta hai fatto bene a dormire, non stai meglio. Io ho portato a Gabriele a mangiare, ho portato. Va bene. Avanti. E Pietra. Marco. Ehi, ciao Antu, ben rientrato. Non so se stavi ascoltando, stavamo provando un portatile, un po' di quelli vecchi. E ricordavo male, che usciva male, invece esce abbastanza bene. Allora, vabbè, adesso l'ho messo a posto perché è un po' un mattone da tenere in mano, dai. E quindi Antonio ti dicevo, sì, l'aveva fatto la Integ 23 canali, poi c'erano tutte quelle imitazioni della Midland, della CTE, che avevano forme però un pochino diverse, però sostanzialmente il concetto era quello, valigettina, accendi i sigari, il portatile forse per forza con custodietta eventuale per batterie e l'antennino veicolare bivalente, no, da portatile o da veicolare. E che portatile era? Il Maxcom 7, un apparecchio dell'84, vabbè io non l'ho visto da Pomponio nell'84, l'avevo comprato nell'85. Gappa, pensa a 20 anni, ma tu quanto è 60 anni ce li hai, vero? Sì, che ce li ho. E allora? 61 novembre, se ne faccio, se ci arrivo. Ma, certo che ci arrivi, perché non ci devi arrivare. Ti sentiremo sempre. Mi fine mese faccio gli anni, preparati i regali, si accettano baracchini, travel check, buoni pasto, assegni, contanti, tutto. Ce ne andiamo a mangiare, ce ne andiamo. No, che poi mi tocca pagare a me. Non puoi dare di là. Un periodo, li sto anticipando a mamma un po', quelli pochi che ho da parte. Che qua, te l'ho detto, quando abbiamo i gatti anziché in due sembra di essere in quattro, a giù mai spendiamo più per i gatti che per noi. Però no. Oh, io non ne voglio animali. Oh. Poi questi gatti facciamo tipo Hansel e Gretel, no? Prima li mettiamo belli all'ingrasso e poi se ce li facciamo Puffa che è più cicciotta ce la facciamo tipo Porcetto. E Flo che è più magretta tipo Abbacchio, tipo Agnello con le olive. Deve cucinare a Russo, deve cucinare. Poverine. Poverino è un cavolo, già paga mamma, dico. Però caspita, già incide. Dovremmo dargli roba più fresca, diciamo, se carne fresca, però sai cos'è, loro non sono abituati alla carne cruda o carne fresca da piccolo, sono abituati alle scatolette dai vecchi padroni e se gli dai roba pollo fresco, crudo, altre cose non ne toccano. Bravo, di solito cominciamo quando gli dai quello a soffiare, diventano selvaggi. Io c'avevo un gatto che era così, era. Queste ormai sono troppo civilizzate, troppo civilizzate, non lo fanno. Sì, ma infatti allora prenderebbero topolini di campagna, ratti, uccelli, se li spiumano, se li spennano, se li mangiano crudi in natura. E li ho visti ninghiare in certi video, sembrano delle belve, e se glielo vai a togliere dalla bocca, hai visto come reagiscono? Io devo soggiare, non so che fanno così. Adesso il turno un po' occupato, un po' strano. Ora già va bene. Sto provando l'amplificatore, come arriva il segnale? Bene. Anto, qua siete già tutti fondoscala già da lisci e quindi è inutile. Poi questo smitter è verticale, è talmente piccolo che io non lo vedo, mi dovrei mettere gli occhiali. Comunque ti ho detto, siete già tutti fondoscala con 3 watt, con 4 watt, quindi la prova non rende. Allora, così da se ci ne discuto va. Siamo troppo vicini, dai. Antonello, sei tu, Zero Radio, qui. Ha bruciato tutto, Antonello, mi cucchendi. No, non ha bruciato niente. Allora, attacco del Comex 4000, c'è un filo diverso dal 3009. Quindi come l'ha attaccato nel cappetto del tempo, non riusciva in radio. E cappetto, bello bene. Adesso sta andando il 140 con... CM40, microfono. Ebbene, il microfono, sono con il microfono a tavola. Sì, hai avuto un attimo di abbassamento, però già sta andando. Antonio, ma da quanto siamo in radio? Dalle 2:30 o dalle 3 di pomeriggio? Quanto siamo? 2 ore in radio, 3 ore in radio? Ecco qua, arrivato. Ora, ho abbassato un pochino perché sta spingendo troppo. L'ho fatto scaldare, quindi. Uguale, mi fa lo scala lo stesso. Infatti questi smitter, d'altronde capisci, no, che solo il Kenwood ha lo smitter buono che arriva fino a 9,60, quelli sono smitter veri. Questi manco a punire, nemmeno a metterne proprio. No, questo già regola bene, già, so che ho io. Però sempre conta, sempre baracchini. Guarda, forse ecco i Saturn, ecco, quelli con quello a ventaglio grande, visto che avevano molta escursione, magari le differenze le notavi meglio. Poi basta usare l'attenuatore, in realtà c'è anche qua, però devo andare menu, sotto menu, e è troppo difficile. Allora, questo è il CRT Mega Pro, omologato, e c'è il microfono tipo bibanda VHF, se tu lo vedi sembra, ti avevo mandato la foto tempo fa, sembra, se tu lo vedi montato in macchina, a tutti gli effetti un bibanda VHF, invece è per la 27. Diciamo, questi DTMF le hanno messe per le funzioni speciali negli stati o nei paesi dove lo permettono, non ci ho capito niente. Per il resto sempre CE, 4 watt, sempre bufami dolci, sono 3 watt, lo so. Certo, lo so. E così alla moto, cambiate tagliare. Alla moto, no, non gli ho fatto niente, no, alla fine le gomme stanno andando bene, per ora, stanno tenendo, soprattutto col caldo. No, ma mica, un po' rumoroso, i freni fa ancora, frenano. Lì finché non c'è l'incidente mortale non cambio niente. vabbè, il rullino non gliel'hai cambiato. No, Anto. No, mi rompo le celi. Mi rompo le scatole perché lì bisogna smontare anche tutta quella parte, cioè o fai tutto a un certo punto o non fai nulla. tutto, lì se si toglie ruota, cosa si fanno? Tutta la trasmissione fatta bene. Come si chiama? Il tamburo e il freno posteriore nuovo, la ruota posteriore nuova, la manovrina nuova, perché quella è rumorosa e si sente. Già che ci sei, tu cambi la ruota posteriore, non puoi non cambiare quella anteriore, che è ancora più importante, e quindi te ce lo gonti. Invece a me piace spendere soldi in cagate, così mi piace intanto comprarmi qualcosina, e quindi non riesco a dar da mangiare alla moto, ecco. Però la moto deserve, deve, cioè, la moto serve come la macchina. Ma no, io me li cambio io, i rulli, le cose, me li cambio io. Sì, no, ecco, vabbè, quello non lo so fare, il posto ce l'ho, il garage ce l'ho, è un garage un po' messo male, però per lavorare su una moto di lusso puoi fare, viene abbastanza bene. Però per il resto, ma poi l'ho usato anche oggi, un bijou, ho fatto commissione, ho fatto in fretta, poi era bello perché ancora c'è quell'area di ferie, no? Ci sono dei posti chiusi, traffico ne ho trovato ben poco, sia l'andata che il ritorno, cioè è tutto bello libero, era, capito? Ho fatto in poco tempo varie commissioni, ecco. Cappa. Ah, io la moto sono andato a vedere oggi, addirittura ho la classe di merito buona nella moto, e se prendo un'altra macchina me la trasferiscono lì, me la trasferiscono. Adesso la dovrò comprare un'altra macchina. E invece ieri, vedi, ieri stava iniziando a piovere, ho detto ah, non ha male, allora ho preso le chiavi della macchina, sono uscito in macchina, però l'ho caricato, ho comprato un po' di roba, acqua di tutti i tipi, sabbia di gatti, più di due bustoni di spesa, insomma un bel po' l'ho caricata bene. La volta che esci in macchina spazio ne hai, quindi puoi fare una spesa più grande. Va bene, Antonello, puoi riprendere, io adesso stacco perché stiamo parlando da 3 ore, sono un po' spompato, invece che mi sdraio un attimino, prendo un po' di fresco e mi bevo acqua fresca, poi ci sentiremo quando capita. Insomma, questo baracchino ho troppo niente, o stiamo mesi che non entra nessuno, o siamo 2 giorni di delirio continuo. Ogni tanto bisogna divertirsi. Ma giusto tu, mi io certe volte quando premo la portante o magari stai fischiando tu che io rispondo, sento solo te, non sento Doppio Room da tanto, non sento Giulio da tanto, siamo pochi, siamo proprio due gatti, anzi oggi guarda, cosa eccezionale, è entrato Luca a salutare, è entrato Natalina a salutare, è entrato Lupo Grigio a salutare, che lui è la terza volta che entra, è entrato Antonio, chi altro era entrato? Boh, non mi ricordo. Natalino, l'ho detto, sì. Chi te l'hai detto? L'hai detto. Spezzone ogni tanto. Tira le balle, cazzo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso va bene, già sta uscendo. Vabbè, la macchinetta elettrica è giustata, Antonio. Ho il garage in fondo, eccola lì. Devo caricare le batterie prima, poi devo fare avanti e metterci il coso che devo agganciare, incollarglielo, che altro, capito? Con la calcia, incollarglielo e così li metto la vicina avanti. C'è una buona scarica. C'è lo spilotto, aspetta. Antone, vai e viene, e più quando non esci che quando esci. Adesso già esco. Oh, ho detto che devo sistemarmi come si chiama davanti, e poi l'ho riuso, poi devo pegarmi i caricabatterie, l'ho già ordinato, costa 20 euro in cinese, cazzo. Per quale? Per quella moto che ho io, con lo scooter per anziani, ti siedi nella sedia e poi cammelli. Ma lampadri tutto, e studi e pigliati la patente, ti pigli una macchina come ti si deve. Allora mi serve per andare via Verona, ti faccio la spesa, anzi la via Verona, l'MD per sicurezza, la via Verona. Non lo faccio più perché mi ha catalocchino, cazzo, che mi ribalto insieme alla spesa, cazzo, lo saranno. AMD, faccio la spesa, due buste e poi rientro a casa, ci infilo la cosa in fondo e ho fatto la spesa, c'è la piena poi, si serve solo per quello. Ehi, capo, ma mettiti a studiare, capo, ti prendi la patente e ti prendi la macchina come si deve. Già, io sono convinto che ce la fai. Però posso comprarmi la macchina, già lo sai perché, cazzo, se non vuoi farmi togliere il reddito di inclusione, finché io ho ancora 18 mesi, poi non si sa che fine facciamo. Se lo tolgono e cambiano le cose, capito, si può anche prendere una macchina, però per il momento macchina non me ne posso incazzare, se no me ne tolgono tutto. No, garantiti, ci sono un grande, perché non si può, non si può punire la benzina uno, tutta cavolata, perché io non me la metto la benzina, quasi, a me poco a poco me lo danno, perché sono vedovo, ho problemi, vabbè, ho miei problemi, e cosa, a poco a poco me lo danno, perché io la benzina me la metto, cosa vento, ma garantiti, si cazzate. Non posso comprarmi la macchina, tanto come pensi tu, e intestarmela, hai capito? Ui, lascia perdere. L'unica cosa che posso prendere è quella macchietta che vende De Villa, quella me la posso prendere. La paga all'atto 100 euro al mese, 4.200 euro. Per il momento mi sta pagando l'acqua di cosa? Di acqua farma, fino al 2027 ne ho. Maga, quella macchina 50? No, questa non è macchina 50, è macchina chiusa per gli invalidi, capito? Quella, la Evo si chiama, che c'ha De Villa, le vende lui, 4.200 euro qui è. Vabbè. Allora, io sto cercandomi una macchinetta, sto cercandomi, c'ho la patente, quindi posso guidare le macchine che voglio. Per adesso non tutto quello che voglio perché c'è una limitazione per il primo anno. Mi piglio una macchina come ti si deve, vaffanculo, c'ho la moto, c'ho. Mi tengo la macchina e la moto. Oh scusa, ma quelle di De Villa, come ha detto Antonio, sono motore 50cc, ma c'hanno la targhina, quindi qualcosa Antonello forse se la deve prendere, no? Per se volessi guidare quella. Mi parlo di quelle senza targa, per disabili e per anziani, costa 4.200. L'altro modello, quello che stai dicendo tu, quello c'è la targa 50, ci vuole molto averla quella, basta che pigli il patentino per la moto, 50 e immediatamente mi piglio la macchina, non è quello il problema, quella da cosa? Diesel è quella. Ah, il motorino è diesel, non è nemmeno quattro tempi, io perché prima erano due tempi, poi le hanno fatte quattro tempi sempre benzina, addirittura diesel. Io diesel ce ne sono, ma ti piglia la battente, la M ci vuole, la minima, quella che ho anche io ho la M e la B per guidare la macchina, quella lì ti devi prendere, però tanto male che me li piglio tutte e due. Sai cosa è? Che perché sono quasi uguali, la teoria è quella, solo che cambia che prendendo la M non c'hai autostrade, capito? La teoria è di meno di teoria, molto di meno di teoria. Come invece la B c'è qualcosa in più, c'è, ma per quello siccome sono sempre 30 domande mi piglio la B. Cazzo, mi prendo la patata della macchina. Antonio, tu cosa? Hai detto che avevi problemi di vista per la macchina, ma sempre che risolvibili con le lenti, con le lenti, no? Con gli occhiali. Sì, c'ho il codice 01, guida con lenti. Mi sa che c'ho anch'io quello, obbligo di lenti, sì. Perché sono diventato miope, una volta, vabbè, quando ero giovane vedevo come un falco, poi la vecchiaia che rogna, adesso per vedere da lontano mi devo punire i bicitti, per vedere da vicino mi devo punire i bicitti, per vedere da vicino, è un po' una seccatura, però l'importante è avere sempre occhiali con sia la guida, perché sennò poi le multe sono salate, capito? Che poi poi non succede niente, io potrei guidare bene lo stesso. Certo però vedi tutto, vedi i veicoli, vedi se vai in località che non conosci, non riconosci, capito, i cartelli delle località da lontano, non leggi i nomi dei paesi, quello è il problema. Se no non è che son cieco. Il binocolo ti metti? Sì, no, perché con gli occhiali te li vedi. Ma l'avevamo detto, lì non ci vede, ma l'avevamo detto. Cioè, ha bisogno degli occhiali. Io dalla volta mi sono messo gli occhiali, quindi nella mia patente c'è codice 01, cioè, che vuol dire guida con lenti, vuol dire. Se sono obbligatorie, così, Nell'attimo della crocca bisogna che vada, Marco. Vedrai che poi vede tutto, senza occhiali. Ehi, come dà la sferzata da dietro, no? Il contraccolpo ti mette a posto anche il nervo ottico e i bulbi oculari. E tutto ti mette a posto.